Can you see it, my brother? Can you see the new? Can you see it, my sister? Can you see the new? Can you see it, my brother? Can you see the new? Can you see it, my sister? Can you see the new? Can you see it, my brothers? Can you see the new? See the new? Buongiorno Luigi, grazie, mi manda il suo buongiorno che ho ricambiato e conferma, venerdì ho letto l'intervista a coach Bianchini, per me il più grande allenatore italiano di tutti i tempi, ha espresso gli stessi tuoi pensieri sul basket, ne sono molto onorato, pareva intervistassero te, grazie Luigi, questo è un complimento bellissimo, gli ha abbinato il mio pensiero al più grande allenatore italiano, quindi grazie di cuore. Buona giornata. E questo mi incoraggia molto, perché sapete che il Move to Groove è così, insomma, domani sarà protagonista proprio la filosofia del Move to Groove per concludere l'ultima puntata e oltretutto per parlarne assieme a voi di progetti futuri. Ha dato il via Luigi a questo nostro motivo di conversazione che ringrazio tantissimo. Ovviamente l'appuntamento è a domani nella rubrica del martedì tra basket e filosofia. Ma iniziamo con la filosofia anche i nostri magazine, i greci che dicevano, e poi quando li riprese in maniera molto molto forte il re Lucertola, Jim Morrison, uccidi tuo padre e possiedi tua madre, ha usato un'altra parola ma non la ripeto nei magazine e ci siamo intesi. Cosa intendeva? Di farlo fisicamente? No, assolutamente, è la filosofia di pensiero di quella aspetto di vincere il famoso complesso di Edipo e nello stesso tempo di portare avanti il confronto intergenerazionale in maniera progressista, quello che ovviamente è stato insegnato dagli antichi greci, poi ci ha pensato lo stesso Freud a darne altre interpretazioni, ma accidenti, qui altro che accidental, qui veramente accidenti, gli antichi romani già dalla frase Brutus tu cuoche fili mi, proprio tu Brutus che sei mio figlio, eppure il parricidio era assolutamente qualcosa di frequente nell'antica Roma. Ed è l'inizio dei nostri magazine, perché l'articolo che presenta il saggio di Ian Thomas, uno storico francese, ha portato motivo di riflessione a proposito dell'incipit dei magazine. Intanto qui abbiamo il parricidio che ha dato poi motivi di cambiamento storico, il parricidio per antonomasia, l'uccisione di Giulio Cesare, ma l'uccisione del padre era pratica diffusa nella Roma antica, forse perché? Beh, ci sono i suoi motivi anche, certo non sto giustificando niente, ci mancherebbe, però era assolutamente una pratica diffusa e qui ne spiega anche i motivi. Intanto era l'unica maniera per emanciparsi. Il figlio era considerato assolutamente nelle mani del padre, anche se figlio maschio, figlio maggiore maschio, non poteva assolutamente niente e nulla, non si doveva muovere una foglia per il figlio maschio che il padre non volesse. e tutto questo lo portava ovviamente a una castrazione non piccola, e l'unico modo per emanciparsi da questo potere non era certo la discussione, il confronto civile, stiamo parlando delle famiglie di potere, delle famiglie patrizie, l'unico modo era appunto la decisione estrema. Su un punto storici, letterati, giuristi e quant'altro, intellettuali e studiosi concordano: a Roma antica i padri temevano costantemente di essere uccisi, ma non da nemici, da avversari, da schiavi in rivolta, ma soprattutto dai propri figli. Aggiunge, sotto il proprio tetto, durante la quotidianità, magari assolutamente in momenti di condivisione, da dove nasce e come si radica nel cuore della società romana? Una risposta suggestiva e convincente si trova in questo testo, La morte del padre, è da Cudo Libet, Jan Thomas ne è l'autore. In questa maniera cruenta il giovane afferrava assolutamente il proprio destino. Se non andava, questa situazione per il giovane erano legnate, ma di quelle forti, oltre che le legnate, pensate, veniva chiuso in un sacco pieno di serpenti e buttato vivo in fondo al Tevere. Queste insomma erano le situazioni per quanto riguarda l'antica Roma, e questo era anche il motivo insomma di processo per, in maniera sbrigativa, per il tentativo di parricidio. Per strapparsi da questa condizione di assoluta dipendenza giuridica e anche economica, il figlio poteva decidere di liberarsi del potere paterno nell'unico modo possibile, sostituendosi a lui. Punto, fine del discorso. The Herald musical poet on the mic sings, got to see the new ways you can pull strings. In order to get what you want out of this life, strife must end, put the pen to the paper, the shaper, things to come. Non sto, certamente, io sto raccontando quello che viene riportato da Robinson, ci mancherebbe, non sto suggerendo, ci mancherebbe tutt'altro. E anche quando riporto il pensiero degli antichi greci, quello di uccidere il padre, non è né un parricidio, né un omicidio, né un aspetto cruento, è quello di andare avanti attraverso il confronto intergenerazionale, che adesso mi sembra, e ne vedremo anche i motivi, un pochettino statico e assolutamente immobile. In particolare sul rapporto tra uomini e donne, sappiamo che Bachofen ha distinto e contrapposto un ordine delle madri, il cosiddetto matriarcato, di cui parleremo, ma quello è un altro aspetto rispetto a quello dei padri, immaginando che si succedessero nel tempo. In verità così non andò, e pur differenziando in maniera rigidissima si viveva all'interno dello stesso regime giuridico. La cosa più singolare è che questa divisione passava non solo nella società romana, che sottometteva le mogli ai mariti, ma quello stesso corpo delle donne, quando queste erano incinta, l'embrione che portavano dentro apparteneva ad esse sul piano biologico, ma al padre su quello giuridico. E se durante l'attesa, per motivi di guerra o di malattia o quant'altro, c'era la scomparsa del genitore, apparteneva, pensate, veniva scavalcata l'idea di maternità, perché giuridicamente tutto ciò andava sotto e attraverso lo Stato, con una tutela attraverso lo Stato. Questo quello che capitava nell'antica Roma. Bruto, tu cuoco, fili mi, il saggio di Jan Thomas. Lo troviamo in presentazione a pagina 19 di Robinson, l'inserto di Repubblica. Все пришло в движение. левый глаз горит холодным огнем. Вы в клетке железной логики, мой Бог, мой Бог. Мой Бог, мой Бог. Samitichklak, non l'ho pronunciato bene, l'ho pronunciato come immagino si debba pronunciare. È la più grande cantante mongola della Tuva, questa steppa della Mongolia, dove un canto di gola, così adesso ho cercato vagamente di imitarlo, ma è molto particolare. Lei è un interprete che porta questa sorta di soul, di spiritualità, con delle note da questo disco, con un titolo Chi ha rubato il mio cielo? Who Stole the Sky, portato da Ponderosa, qui in collaborazione con musicisti anche italiani. È uno dei suoi dischi più riusciti ed è un disco che consiglio assolutamente per conoscere altri suoni oltre che portarlo in colonna sonora dei magazine. Potrebbe tranquillamente essere presente nelle playlist di suoni un po' particolari. Il suo lavoro anche in intersezione col drum and bass e l'elettronica è quanto mai ben riuscito e suggestivo. Esempio questo. Digital mutation. lasciati in buona compagnia. Sentite sotto la ritmica questo coro. La musica, stavo per dire il muso, la musica della tuva, è il modo di cantare da questa steppa nella Mongolia. L'amico Samitich Klak è decisamente l'interprete che l'ha sdoganata e l'ha portata in intersezione anche con l'elettronica in maniera molto colta, tra l'altro. Secondo me è un artista da seguire. Pagina 31, Santi Rivoluzionari. Anche qui c'è una rottura importantissima che è andata poi anche nell'arte, nella storia, nella spiritualità, nella fede. Stiamo parlando ovviamente del Poverello di Assisi, sempre su Robinson. Francesco e Pop, Santi Rivoluzionari. La National Gallery di Londra riunisce una serie di opere che attraverso i secoli hanno ritratto il Poverello di Assisi, che parlava con gli uccellini, che rende buono questo lupo, che alla fine è una lupa che deve solo sfamare i suoi cuccioli, e quindi riesce a mettere d'accordo la natura con l'uomo. Fino a quel momento la natura doveva essere assolutamente, come adesso che siamo tornati indietro, soggiogata assolutamente all'uomo. L'uomo è stato creato a immagine e somiglianza dell'Altissimo, quindi se lui vuole distruggere la natura può farlo tranquillamente. Poi arriva San Francesco d'Assisi e dice: eh no, anche la natura è stata a sua volta creata dall'Altissimo, per cui andiamoci piano. È talmente pieno di questa spiritualità, pensate che nel cantico lui definisce sorella morte, già questo ha portato motivo di riflessione, e questa mostra, questo allestimento si apre col tributo dello scrittore Gormley e con quelle immagini che qui vediamo del Caravaggio da San Francesco in estasi 1594, con un arcangelo che coglie e accompagna il momento di meditazione di San Francesco, sarà presente in questa esposizione di un Francesco che è Pop, come viene definito su Robinson nella pagina dedicata all'arte. Dal mondo, Blue Planet con Peace for Kabul, musica dall'Afghanistan, con questo lavoro quanto mai suggestivo e intenso a proposito di spiritualità trasversale che viene soggiogata da un digitale quanto mai potente e pieno, con una rivoluzione, chiamiamola se vogliamo rivoluzione, ma tant'è, non si può far la guerra ai mulini a vento. Ci informiamo, ne prendiamo atto, ma assolutamente in maniera critica vediamo come certi percorsi potevano essere cambiati. E io che mi sentivo così originale a dire bisognava nazionalizzare tutto, quello che è la potenza dell'etere, quello che è la potenza della digitalizzazione dello spazio internet, e sono arrivato tardi di 50 anni. Pensate, siamo in Cile, l'11 11 settembre 1973, 50 anni fa, un golpe stroncò la via cilena al socialismo, quel modello osteggiato dagli Stati Uniti e dal mondo capitalistico, ma poco amato anche a sinistra. Siamo a pagina 3 nel long format della lettura del Corriere della Sera. Durò un migliaio di giorni. Tra le sue ambizioni, attenzione, meno note, ci fu il tentativo di creare un internet democratico per unire imprese nazionalizzate, lavoratori, management. I protagonisti chi erano? Beh, c'erano i Chicago Boys, no? Gli ultraliberisti. I protagonisti di questo movimento invece erano, appunto, siamo in Cile, i Santiago Boys, e avevano visto giusto, per quanto riguarda una critica alla Silicon Valley e ricostruire quella stagione che probabilmente sarebbe stata una via più equa per quanto riguarda la realtà di internet, della digitalizzazione e quant'altro. Ergeni Morozov, sociologo cybersin, cybersin, cioè allora mettono insieme la parola cyber e sinistra, non fu solo una rete di telex, fu un modello di sviluppo democratico per le aziende che univa impresa e lavoro. Mario Grandi, l'ingegnere italiano tra i Santiago Boys, nato come un progetto cibernetico, assumerà anche una connotazione ideale e sociale. Hanno stroncato tutto, ovviamente. Dietro chi c'era? L'operazione Condor e la CIA. Ma guarda un po'. Non dimentichiamo, ora ascoltiamo un po' di musica con la voce di Dio. Ma come una donna? È una donna islamica e viene definita la voce di Dio? Sì, è una donna persiana. Risponde a nome di Susan Dehim, The Madman of God. Questo disco, che tra l'altro secondo me è bellissimo, è una traduzione di poesie sufi, sapete, no? Il movimento legato al mondo musulmano che dà attenzione al mondo femminile, alla poesia, alla letteratura, all'arte, alla scrittura e quant'altro. Insomma, lei di tutto ciò ne ha portato sonorità e traduzione dalle più grandi poetesse e poeti legate al movimento sufi. Ce l'ascoltiamo, poi torniamo in diretta, perché vi ho detto è una vigilia, noi non vogliamo assolutamente dimenticare, sappiamo bene che domani è la giornata della pasta asciutta antifascista, verrà ricordata anche a Bologna. 25 luglio 1943 i fratelli Cervi festeggiano la caduta a Campegine del fascismo e avranno modo di invitare per un pranzo, e servendo pasta asciutta dal centro del paese, invitando tutte e tutti, e sarà una tradizione che resterà grazie alle cucine popolari di Roberto Morgantini, che magari avremo in diretta telefonica, e si terrà domani nel cortile d'onore di Palazzo d'Accursio in Piazza Maggiore, ovviamente a Bologna. L'ora è perfetta, le 12:30. A tra poco. dal piatto del giorno di Matthew Herbert, dove oltre le sonorità aggiungeva anche il suono utilizzato da alcuni cuochi o da alcune pietanze durante la preparazione. Sapete, vi ho parlato di Matthew Herbert, che era un pochettino strano, è un pochettino strano. Alla giornata di domani, 25 luglio 2023, con l'importante momento dell'ottantesimo anniversario dalla caduta del fascismo, 25 luglio 1943. Nel cortile d'onore di Palazzo da Curzio, in Piazza Maggiore a Bologna, alle 12.30, ehi mamma, butta la pasta, direbbe Dan Peterson. Non è il Move to Groove, ma sono i Magazine, ed è un appuntamento da certo non dimenticare, la pasta asciutta antifascista a Bologna. E a tale proposito, per Cucine Popolari do il buongiorno a Roberto Morgantini. Buongiorno Roberto, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ciao. Grazie, intanto non è proprio una levataccia, siamo a colazione. No. Ma parliamo del pranzo. Allora, storicamente ho già portato qualche nozione anche prima della pubblicità. A te Roberto chiedo appunto come sarà sviluppato questo pranzo quanto mai importante e particolare. Che succederà, come è stato organizzato, e do a te la parola per tutto ciò. Ma intanto per non dimenticare, che credo che sia la parola d'ordine, dimenticare che cosa è avvenuto nel nostro paese, la storia del nostro paese a 80 anni da quell'evento che non fu ancora la caduta del fascismo, ma l'arresto di Mussolini, cioè un evento importante che avrebbe segnato l'inizio della fine del regime fascista, di quello che accadde in quegli anni terribili. E quindi da qualche anno si è ripresa questa voglia di ricordare, ma ricordare attraverso anche a quello che la famiglia Cervi in prima persona festeggiarono questo evento, l'arresto di Mussolini, con un coinvolgimento generale di campesi del paese, no? Dove parteciparono un po' tutti, chi portò il burro, chi portò la pasta, chi il sugo, in sostanza una grande festa di paese nazionale, che diventa poi nazionale, per un evento come quello. Si era un po' persa nel tempo, ma da qualche anno a questa parte si è recuperata e la si festeggia un po' in tutto il mondo, no? La Germania, la Palestina, la caduta del fascismo, ci sono italiani naturalmente che la organizzano, ma con una testimonianza vera di un ricordo che sia un insegnamento per certo, il futuro, ma anche per il presente, ecco. Certo, papà Cervi ebbe questa idea, e sì, ovviamente anche chi si è adoperato, come sarà domani, per servire concretamente questa portata così semplice ma così carica di forza, come un buon, certo, piatto di pasta asciutta. Collaborazioni, oltre che Radio Città Fujiko con i Magazine. Sì, no, ma comunque la partecipazione è larga, dunque, certo, tieni conto che sono i sindacati, Libera, Piazza Grande, là, cioè in sostanza c'è un po' il mondo che si muove, il mondo sociale è impegnato in sostanza, e molto probabilmente come dire, le cucine popolari cucineranno, perché è un, sì, compito fondamentale, indispensabile. Sì. E niente, verrà offerta questa pasta con qualche intervento musicale da parte delle canzoni, che saranno quelle che saranno, quelle impegnate in sostanza, e poi una larga partecipazione, almeno gli umori sono quelli dell'esserci e dell'essere presente, proprio perché anche è nel cuore della città, no? È dentro il cortile Palazzo d'Onore. Sì, infatti. Dove insomma rappresenta un po' tutto e tutti. Questo è fondamentale. Ormai il cuore. Sì. Il cuore, quindi, è fondamentale, è importante, con il valore che saprà esprimere, che esprimere tutti gli anni sta crescendo. È probabile che Alessandra Spisni, leggo anche. Sì, lei collabora regolarmente a queste iniziative, cioè non solo per la battaglia antifascista, ma c'è una collaborazione continua, che so, a questa scuola, e da questa scuola dove arrivano un po' da tutto il mondo a imparare alle prelibatezze bolognesi, e la scuola produce, poi non si butta nulla, quello che producono gli studenti, diciamo così, o gli allievi, viene dato alle cucine popolari, è distribuito e consumato con gli ospiti, insomma. Certo. E quindi lei ci tiene, torna dalle vacanze, ecco, per essere per presente questa, certo, mi rendo conto, iniziativa. Onore al merito, onore alle cucine popolari, l'impegno, la diffusione, l'attenzione. Poi attenzione, c'è un altro aspetto, guardate come il simbolo della pasta asciutta, dell'aspetto non primitivo ma primario della cucina, diventa qualcosa assolutamente di progressista e di aggregazione, per cui veramente manteniamo, per non dimenticare la storia e per non dimenticare quelli che sono stati dei percorsi, seppur travagliati, ma fondamentali per il nostro paese. La pasta asciutta antifascista bolognese è domani nel cortile d'onore di Palazzo da Curzio in Piazza Maggiore, ovviamente a Bologna. Io faccio la colazione di solito, ma in questo caso vi auguro un buon appetito per un grande pranzo. Grazie di cuore. Speriamo. Ah, un'ultima appendiva, un'ultima. È probabile che legare appunto la storia con l'attualità, un gruppo di studenti sarà presente, molto probabilmente c'era anche Patrick Zacchi. Beh, questa è una cosa dovrebbe bellissima. Essere almeno, certo abbiamo visto ieri sera, ne abbiamo parlato. Avremo modo di scoprirlo. Esatto. Grazie di cuore, Roberto. Buona giornata a tutti. Buona grazie giornata. A voi, grazie. Ciao. come rispondeva mia madre quando le chiedevano: ma come ha fatto un figlio così alto, così un omone? Ma guardate, adesso che io, sì, normale alimentazione per quanto riguarda l'attaccamento al seno, ma più che altro da subito lui ha sempre voluto i maccheroni con ragù. Mio figlio non mangia. Mamma mia, che nervoso. Vanno a mangiare il sushi quando sono adolescenti, un bel piatto di pasta asciutta, un piatto di maccheroni. Non scuoceteli, l'unica cosa che vi chiedo è questa, mi raccomando, non rovinateli con una cottura prolungata, non scuocete la pasta deve scricchiolare sotto i denti. Voluto, oltre che per motivi ovvi che ho già portato, il ricordo del 25 luglio all'interno dei magazine, perché è presente anche sulla Domenica del Sole 24 Ore e il maccherone in piazza divenne antifascista. Il 25 luglio 1943, esattamente 80 anni fa, dopo 21 anni di dominio politico, cadeva il governo fascista e Benito Mussolini veniva arrestato. La guerra sarebbe continuata ancora per due tragici anni, ma pochi avrebbero sospettato un epilogo lungo. Era però senza dubbio il momento di festeggiare. Con questo electro funk ci stanno accompagnando alla conclusione dei magazine. Domani un mood groove dialogico di conversazione con chi ci sarà per dei progetti futuri. Mi rassicura, anzi mi incoraggia Luigi con il pensiero dopo l'intervista al più grande allenatore italiano, che è Valerio Bianchini, e l'osservazione: beh, lui parla esattamente come te e io quell'intervista, vi posso assicurare, non l'ho ascoltata. Arriva arriva anche la critica di Sergio che dice: Sergio, in questo caso sono poco innovativo. Sì, lo ammetto, come sei poco innovativo. Ci vuole pasta proteica gluten free e carne sintetica. Sai cosa facciamo, Sergio? Te lo ricordo quando vieni a trovarmi in Polesine, questi concetti che stai esprimendo, e te lo ricorderò quando andremo a pranzo. Io ti ricorderò appunto questi principi, perché io sono per una libertà totale per quanto riguarda le decisioni a proposito dell'alimentazione, però lasciatemi le mie. Di oggi, grazie a Roberto Morgantini di Cucine Popolari per l'appuntamento di domani con la pasta asciutta antifascista bolognese nel cortile d'onore di Palazzo da Curzio alle 12:30. Domani alle 7 invece la colazione è con i magazine. No, scusate, domani alle 7 i magazine stanno andando in conclusione e domani alle 7 col Molto Groove, bravi, è l'imprevedibile martedì di Radio Città Fujiko, ultima puntata del Molto Groove, scusate, ogni tanto insomma posso avere qualche refuso, fosse solo qualcuno. Vi auguro una buona giornata, un buon lunedì e ovviamente un buon ascolto sulle nostre frequenze. A breve darò la linea Liberi Dentro e per la colazione domattina alle ore 7. Un caloroso abbraccio, grazie per l'attenzione, un saluto a tutte e a tutti dal vostro William Piana. Domani ore 7, colazione, Mood Groove, Mood Groove. Ciao!